una bilancia, c'è una bilancia dove da un lato c'è la grande esperienza, parliamo di una squadra che negli ultimi 9 anni è sempre stata in questi quartieri, quindi è una squadra che sa benissimo come si distribuisce l'ottica dei famosi 180 minuti, sa bene di essere una squadra che, avendo vinto il girone, ha la possibilità di giocare la seconda in casa e quindi eventualmente anche dei tempi supplementari o dei calci di rigore. Questo va tenuto presente, è vero. Va tenuto presente. Dall'altra parte però c'è una squadra in flessione, cioè il Chelsea, contro una squadra in crescita. Il Napoli di un mese fa era un Napoli che ci avrebbe preoccupato, il Napoli di adesso è un Napoli in condizione, in temperatura, diciamo. Il Chelsea invece è calato, è costretto a un replay in FA Cup contro il Birmingham, quindi con una squadra del Championship, è una squadra che in campionato è staccatissima dalla vetta, rischia di non fare la prossima Champions, peraltro come il Napoli, e dovremmo anche tenere conto di questo, che è molto più importante, sembra un paradosso, ma è molto più importante garantirsi la prossima che continuare a vivere questa, però è evidente che in questo momento le squadre devono pensare a questa e non alla prossima. È una squadra che prende un sacco di gol, Čech ha preso molti più gol di De Santis, è una squadra con una difesa a tratti anziana quando gioca John Terry e a tratti distratta in David Luiz, ha grande qualità David Luiz, ma è un giocatore che assomiglia a volte a Lucio, molto bravo nell'uscire palla al piede, molto spettacolare in certe movenze, ma tante volte un pochino distratto, e questo il Chelsea lo paga, anche perché ha un centrocampo a tre dove ci sono buoni giocatori come Ramirez, come Raul Meireles e come evidentemente Lampard, ma che è troppo poco protetta la difesa da questo centrocampo a tre, perché Villas-Boas gioca con Sturridge, Mata e Drogba, Fernando Torres, comunque giocatori molto offensivi che aiutano poco la fase di mezzo, e questo il Chelsea lo sta pagando molto molto caro.